carezza del vento, il profumo dei fiori, un lontano lamento prende il mio cuore. È una musica il sole, è una musica il mare, quando l'anima sento vibrare. Musica divina, che m'hai preso il cuore, non sai che canto d'un violino può fare di un sogno il mio destino. L'anima ti chiama, tu mi rispondi amore, e quelle dolci note allora fan tremare il cuore. Soltanto la tua voce vuol dire piacere per me, e il cuore mio ti dice vivrei per te. Musica divina, tu che conosci il cuore, chissà se un giorno mi dirà dell'amore verrà. Ora bene.